applicativo attento a chi si ramullava in 5 minuti e ributtito. E poi lì la sopportava bene la glicemia alta. Certo, si via via, quando la via alta, c'è via vita, bravo, tu dimmi, cos'è. Magari a uno, quando viene a 300, comincia a sentirsi male. E mamma invece, con la glicemia alta, di cantiere, abituata, non rivazia nulla. Ma se mi hai sentito quello che ti ho detto prima? Ecco. Detto Marina oggi era a Usini, è andata a trovare uno zio a portare dei fiori al cimitero, no? E stava raccontando, c'era il marito di questa, come si chiama, il parente suo anche, di 60 anni circa, l'ha trovato morto, la moglie morto di infarto. Di cavolo. E dico, oggi vi siamo domani a Osisana, e Usi. La vita è così. Non potrebbe essere diversamente. E a me mi hanno fatto di tutto e di più, due visite a lui ci ho fatto da Mogu, a chi vuole, a chi mi aveva ordinato la visita degli occhi, la dottoressa, e quindi la giudicò di va. Ah, ma devo andare alla di Candè. Quando è che devo fare la visita al cardiologo? La Dio, tu devi andare al cardiologo a che mi hanno acciappato la pressione alta e devo buttare tutti i cartelli clinici, tutto quanto devo buttare. Lo so, un casino Natali. La vita è un casino, è un casino. Poi vabbè, quando ci imbottiscono di medicine, guardi che ti basta di bene. Te se non ti basta di bene, no. Adesso purtroppo devo fare questa visita al cardiologo perché ho la pressione alta attorno. Bisogna che mi raggiungi già di mangiare un bacio, però non me ne fatto nulla. Mi va a la glicemia sia l'alta che la bassa, cioè alte. E quindi bisogna che mi tocchi una cura diversa il cardiologo. Insomma c'è la visita diabetologica il giorno 7 marzo. Bisogna mi cambiare bacchia che non mi va di nuda, che si mi erano giambati, che si pigliavo prima, mi radiniani 130-80 me la teneva. Ah va invece vi raggiuassa. Mi riavvio il modem, non c'è connessione. Sì, ciao, fregatevi la salute. Ce la crepiamo, ce la preghiamo, sì, la salute. Ah, vediamo cosa nesci. Tu, Natali, come ci trovi a Marchetto? Ciao Tino, ma come sei così basso? Senti a voi 5, stai arrivando. E adesso? 5 a 7, c'è qualcosa che non va? Non lo so, aspetta. A me 9 e 5 mi sta arrivando, Tino. Ma io me ne sto andando, sì. Aspetta un attimino. Ora. E adesso? Come sai che subito un problema? Come è la prima? Cosa ti volevo dire? A Marchetto chi? Marchetto 80 stai dicendo? No, Simula. Li ho conosciuti tutti e due, perché Marchetto Simula era amico di Marchetto 80, che Marchetto 80 faceva il meccanico dentista ed era mio cugino, andavano a caccia assieme. Sì, lo so, andavo anch'io con loro. E ci ha lasciato comunque. E chi Marchetto Simula? Eia, stamattina. Morto, E così mi stava dicendo uno dei fratelli, Franco. Dice che si è seduto nel letto, ha aperto le braccia e si è lasciato andare. E adesso Luca, come sta andando? Sto uscendo, non sto uscendo. Santiago Rosa sta arrivando, sì, da me. È probabile che abbia problemi, Luca. Perché qua mi sembra tutto regolare. Pass in off, io sono sceso di segnale. Sono proprio adesso. Vabbè, sono la città. No, ma io mi sono andato alla diretta, voi mi stanno, questo spezzone mi sta dando problemi, Ma si scendi voci tu. Ma là si che giro spezzone puoi fumare. È probabile, perché qua sei 9:10 alla mia stazione. Eppure io lo so, sembra che ti ho tolto, ha accordato benissimo anche. Sì, no, va a picchi 9:10 ti. Capito. Andare. Vabbè. A me 9 con picchi positivi mi sta arrivando Tino. Un giro del mondo. Ma non è tanto bello essere positivo in questo periodo, eh. Non conveni no. Però per qua già va bene. Come stavi dicendo che Marchetto si è lasciato andare in che senso? Avaraudu a che infarto, Avaraudu, vedi se fu imminanti, poverino, e c'è rimasto. Esatto, ho lasciato un infarto, così sta facendo fratello. E poi era già da un paio di giorni che stava accusando dolore a un fianco, diceva lui, sicuramente al fegato. Perché non è che aveva smesso del tutto, eh. Oia. E me cugino non è molto così, ma stesso. E mio compare. Oia, lascia perdere, va. A Tottano già te lo ricordi, sì. Come? A Tottano 2. Sì che me lo ricordo. Sì, a Tottano, sa fine. Morto era, non ne sapevo nulla, no? Mi sembra già qualche un anno e mezzo, sono due. Cazzo, tutti giovani, gli salienti, mamma mia. No, un anno buono, sì, un anno buono. Perché stavo lavorando vicino a casa sua e insomma, ho fatto finendo il lavoro e andandosene. Cisso, da non credere, questa gente è giovane. Cos'è, Milucca? Quanti anni aveva quel ragazzo che stavamo parlando la volta scorsa, quello dell'Eurospin? Aspetta mia, 47. Ti puoi immaginare? La vita purtroppo è questa, non la possiamo cambiare. No, vabbè, quello non c'è dubbio. E io me l'ho vista la morte in faccia nel 2007. Meno male che me ne sono accorto in tempo, subito giù dalle fanate mi sono fatto portare via. E fortunatamente il riduttore è entrato, che mi ha buttato subito in unità coronarica, mi ha detto, ascolti, lì c'è un infarto in corso, gli devo fare un intervento. Se mette la firma glielo faccio subito, altrimenti fra 3 giorni. Se mai non avevo firmato ero gribato. Se dovevi aspettare allora, per carità. È subito firmato, rete tutto in sala operatoria immediatamente. E allora, poi vabbè, ognuno insomma pensa sempre alle cose migliori, però sai, quando c'è in corso bisogna agire subito. Come stavo andando io? Male? Bene? Bene. Forse arrivo ti ora un po'? Quasi 9:15. Mm-hmm. Però non si mette troppo alto, troppo stopo sta salendo. Sta salendo troppo? Ma il tuo? Sì, va a sbattere, quasi. Ma anche il mio, però quello del veicolare, del camper. Quando schiaccio la portante, vabbè, quando il sede contro sette attaccato anche, va tutto a fondo scala. Ma poco ne frega. Ah, vabbè. Sì, ma tu qua va a sbattere. 9:25 sta arrivando Luca qua. Che ho guardato bene. E Tino 9:05. Vabbè, ma lui è molto più vicino a te, eh. Ehi, lo credo. Già lo so dove sei tu. Senti, ma Natalia, 9:25 non è che sono forte forte, la piace ho qualche problema sicuramente. E questo è serio, lo smettermi. Poi non posso modulare. No, baragoni. Cosa c'hai? Una baragoni. Una baragoni? Ogni paragone ho detto. Luca qua non vai 10, tu ce l'hai 20, come mai? Boh, tu sei basso qua, non so se ho problemi io dell'antenna, boh. Tu stai usando il 430. Cosa? Qua stai usando il 430. Non vuol dire c'è un basso, io non gli do caduto. Santiago, fa un passaggio. Prova, 1, 2, 3, 4. Santiago 5, 6, ma dipende da me, non so cosa è successo. Lascia perdere. Non infatti lascia perdere, Luca, che guardano bene, mi ha messo l'occhiale, c'è Santiago 8, quindi controvegia dell'antenna, che il sovento ha fatto qualche cosa. Se la vedi ancora, oggi controllo più nulla. Oh, è capazza, no. Cos'è di tua madre, sì? Sì. Non ti agotto, sei arrivato. Il tuo segnale era 9:10, infatti l'ho letto così. Ho guardato bene, sei Sant'Agotto. Vabbè, non va stata la capitura, ma manco morso. Vabbè, Tino è 9:20, quindi la ricezione mia è a posto. Vai, divertitevela, ciao. Cosa sì, col 4:30? No, perché? Perché mi sembra con lui. No, questo purtroppo è il mitico 440, questo è il 140 mio che ho comprato quest'estate, cioè l'estate, questo fine estate dell'anno scorso, a settembre, e me lo sono fatto per me, perché non esce bene. Sì. No, pensavo che avesse qualche problema. Io andavo via, frappì. 140 e T250, linea completa, sono riuscito a comprare. Va bene, dai, vi saluto che è pronto la cena. Ciao a tutti ragazzi. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova. 9. Insomma, ma vale tu buca slugavo, ma vale buca slugavo, ma facciamo il misero del stazionario. È il basso, sì, non è il tuo segnale, va. Vabbè, ci sentiamo, ciao ragazzi, ciao Tino, Natalino, eccetera, e compagni, ciao. Carissimo Claudio. Ciao, Natalino. Ciao, Cla. Ciao. Matta, anche io dai, mollo, che devo... è già pronta la cena, diciamo, e quindi devo fare un po' di preparazione. Ciao Lu, dai, sentiamo più tardi nel caso, se ne hai voglia. Ciao T, buon proseguimento. Io mi ritiro per deliberare. Ciao a tutti. Ciao, più tardi. Faccio stazionarie. Ciao, io ho salutato che sono andato a acciare. Anche Claudio e Natalina sono andati via. Ciao Tira. Stazionaria a 2, ciao. Vabbè, qua sta arrivando sempre il tuo solito segnale. Non so cosa sia successo. Vabbè, ciao. Ciao.